Denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Eccoci qua, Nicoletta, ci siamo, siamo arrivati all'8 dicembre, non è la nostra festa dell'Immacolata, però più o meno belle immacolate siamo, la nostra, da che non si sa, ma lo saremo. Ecco, la nostra è il 6 di gennaio però. Esatto, anticipiamo già, così un po' a sorpresa magari ci arriva anche qualche regalo. Allora, teniamo compagnia anche in questa giornata di festa ai nostri ascoltatori, qualcuno sarà a casa. Qualcuno si starà concedendo qualche giorno di vacanza, magari nella sua seconda casa in montagna o magari nella casa di qualche amico, di un parente. I numeri di questo ponte ci dicono che una timida uscita dalla crisi potrebbe esserci, almeno sul fronte del turismo, e chissà che questo non si possa far sentire presto anche sul mercato immobiliare. Insomma, che torni la voglia e la possibilità di investire nell'acquisto di una casa in una meta turistica, in questo caso in una località montana, in una stazione sciistica. Allora, dedichiamo oggi questa giornata di festa a questo argomento. Voi ci state pensando? Che idea vi stuzzica? Quale località vi piace? Con quale budget? Noi oggi torniamo ad osservare il mercato immobiliare, per così dire, sotto la neve, o che presto potrebbe esserlo. Lo faremo nella prima parte di Cuore Denari. E allora, Deborah, dopo aver trovato la casa delle nostre vacanze, noi ci faremo una bella cantata, perché cantare ci fa bene al corpo, alla mente, lo abbiamo sempre saputo e pensato, ma adesso anche la ricerca lo dimostra per diverse ragioni. Ad esempio, cantare è uno straordinario esercizio respiratorio e quindi migliora la funzionalità polmonare e l'ossigenazione del sangue, e questo a sua volta si traduce in un abbassamento dei livelli massimi di pressione sanguigna, che si assestano su valori più bassi. Ma non è finita qui. Quando cantiamo, la tensione si allenta, si interrompe la catena dello stress e quindi l'umore ci guadagna. Più canzoni conosciamo e cantiamo, e maggiori sono i benefici che ne ricaviamo. Per questo oggi, all'indomani dell'inaugurazione della stagione scaligera, vi invitiamo a cantare in diretta da noi, e magari con noi potremo metterci alla prova con la canzone dei Sulutumana, che accompagna la favola che stiamo scrivendo tutti insieme con Andrea Vitali. La canzone si chiama La conta che si canta. Preparatevi, ma se avete altro nel vostro repertorio, naturalmente siamo qui pronti ad ascoltarvi le vostre cantate. In studio con noi un osteopata, un vocal coach, un allenatore della voce, maestro di canto, come volete chiamarlo, che ci aiuteranno a usare il canto per fare il pieno di benessere. Dal cocuzzolo della montagna, con la neve alta così, nella valle noi scenderemo con i piedi un paio di sci. C'è un'altra donna con noi stamattina che festeggerà anche il 6 gennaio più avanti. Sicuramente. Ti reinvitiamo in quell'occasione. Vabbè, vediamo se ha le caratteristiche, perché esatto, non ci allarghiamo. Esatto, eh? Esatto. Bisogna superare il test di Cuore Denari per partecipare a quella festa. Lo faremo. Paola Dezza del Sole 24 Ore, buongiorno e ben ritrovata. Grazie, buongiorno a te. Grazie per essere con noi anche a te in questa giornata di festa. Tutto in turno in questi giorni. Allora, ovviamente però Paola Dezza, la donna del mercato immobiliare per il Sole 24 Ore, ma vogliamo sentire anche le vostre considerazioni sul tema che abbiamo scelto per questa giornata. Diteci che canoni d'affitto per una o due settimane state trovando nelle vostre località di montagna preferite. 800 24 0024 è il nostro numero e anche il vostro. Ci potete anche scrivere al 349 238 6666. Mentre voi esplorate per noi il mercato dell'affitto, noi invece andiamo alle compravendite per capire che stato di salute vive questo mercato. Peraltro, ho trovato intanto questo dato interessante, lo abbiamo già parzialmente indicato nell'introduzione, indicato da Federalberghi, secondo il quale pare che saranno circa 6 milioni gli italiani in viaggio in questi giorni e che dormiranno almeno una notte fuori in questo lungo ponte dell'Immacolata che stasera finisce. C'è una crescita di quasi il 13% rispetto allo scorso anno, quindi il mercato turistico un po' riprende. Quello immobiliare, Paola, come sta andando? Dacci subito una prima fotografia. Allora, quello immobiliare in generale, quindi che comprende tutto, prima e seconda casa, sta migliorando. Infatti i dati dell'Agenzia delle Entrate relativamente al secondo e al terzo trimestre del 2015 sono dati sostanzialmente positivi. Nel terzo trimestre più 8,8% le compravendite residenziali, con dei picchi a Milano e in altre città oltre quasi al 20%. Quindi le compravendite riprendono un po' perché i prezzi sono effettivamente scesi parecchio dall'inizio della crisi. Quindi questo è il primo motivo che spinge a riconsiderare l'acquisto. Oltre a quello, i mutui che oggi si vengono vengono stipulati a tassi assolutamente convenienti. Qualcuno inizia a dire che la finestra per stipulare mutuo a questi tassi è una finestra ancora breve, quindi andrebbe insomma bisognerebbe ancora approfittarne, anche se insomma Mario Draghi in realtà sta ancora concedendo credito alla grande, al sistema bancario, per cui magari durerà ancora un po'. Sì, ancora sicuramente qualche mese, però sicuramente non anni, ecco, esatto, diciamo, anche certo, se tutti ce lo auguriamo, da un lato. E quindi diciamo il fatto che le compravendite residenziali si stiano riprendendo, questo non significa che siamo completamente fuori dalla crisi e completamente in una fase di ripresa, perché bisognerà vedere anche come andrà l'ultimo trimestre dell'anno e poi le prospettive per il 2016, ma questo fa riprendere anche un pochino quello che è il segmento della seconda casa, che era stato negli anni di crisi quello più penalizzato, perché ovviamente l'acquisto della seconda casa è un acquisto più che altro di sentimento, di desiderio, quindi non è una necessità, la necessità è la prima chiaramente, e quindi le compravendite si erano fermate. Adesso tornano un pochino gli acquisti sulla seconda casa e anche sull'investimento, quindi diciamo la montagna, come le altre zone di vacanze e turismo, stanno beneficiando di questa fase, anche perché i prezzi sono scesi molto in tante località. Vedremo dove sono scesi di più, dove invece il mercato ha delle caratteristiche di rigidità ancora evidenti. C'è un'indagine di Tecnocasa diffusa circa un mesetto fa, anche tu forse hai questo monitoraggio, e questa indagine, appunto la più recente che ho trovato, indicava che per quello che riguardava l'andamento generale appunto delle compravendite del primo semestre dell'anno c'era una ripresa, c'era un'evidenza relativamente all'abitazione principale, appunto, che è la scelta naturalmente del 68,4% degli italiani, seguito per quello che riguarda questo trend dalla casa d'uso investimento 21,4%, poi dalla casa di vacanza 10,2%. Questo è la percentuale che ci interessa, perché rispetto al primo semestre del 2014 si registra un aumento della percentuale di acquisti di casa vacanza. L'anno prima nel 2014 si attestava all'8,3%, quindi spero di essere stata chiara in tutte queste percentuali che abbiamo dato ai nostri ascoltatori. Possiamo già andare alle località più gettonate di questo periodo? Sì, diciamo che Valle d'Aosta e Trentino sono le regioni che tengono meglio, anche perché appunto sono vicine a grandi città, quindi se un milanese o un torinese vuole acquistare la seconda casa si dirige verso le località più facilmente. Ti sei sentita chiamata in causa? Certo. Subito. Diceva Nicoletta che è torinese, ovviamente. E quindi diciamo sono le località che hanno tenuto meglio anche sotto il profilo prezzi. Per quanto riguarda la montagna, diciamo che in generale il panorama è il panorama di uno stock abitativo che si sta rinnovando, però il nuovo non è mai così preponderante, anzi generalmente appunto nelle località turistiche. Nelle località turistiche lo stock è sempre uno stock che risale a parecchi anni fa, quindi i prezzi sono molto diversi tra quello che è il nuovo e l'usato, anche perché oggi quando si va a fare un acquisto si cerca anche di comprare il nuovo con una certa classe energetica che quindi dia garanzie anche di ecosostenibilità a livello di abitazione, per cui diciamo bisogna fare un pochino i conti tra quello che è il nuovo e l'usato, perché sono una forbice di prezzo che non è indifferente assolutamente. Allora 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta, ma come sapete potete anche scriverci al 349-238-6666. Naturalmente la prima osservazione che fa Walter è quella relativa alla fiscalità che grava sull'investimento immobiliare. Una seconda casa con tutte le noie di acquisto per farmi poi massacrare da tasi, tari e spese di mantenimento, non se ne parla proprio. È vero, questo è stato un altro dei motivi che hanno diciamo frenato l'acquisto di seconde case, perché i mutasi è generalmente l'aliquota a livelli più alti, quindi è abbastanza pesante poi da sostenere durante l'anno, e oltre a quello c'è stata una tendenza dell'acquisto di una seconda casa all'estero che per gli italiani è stata particolarmente rilevante negli ultimi anni, quindi hanno abbandonato un po' l'Italia, casa al mare o casa in montagna, per comprare magari a Londra, Berlino o in altre capitali, quindi c'è stata questa tendenza abbastanza importante. Salvo poi dimenticarsene di mettere la dichiarazione dei redditi e fare la voluntary disclosure della quale abbiamo tanto parlato, ma questo è un aspetto folcloristico che stamattina non ci interessa. Allora, ritornando Paola invece proprio al tema località prescelte, quali sono quelle che magari andavano molto di moda negli anni passati e stanno adesso perdendo smalto e non sono più ricercate come una volta, e per quali ragioni, se ce ne sono di evidenti? Sì, ce ne sono di evidenti. Diciamo che ci sono località che nell'ultima fase si stanno magari magari riprendendo il caso per esempio di Courmayeur, magari anche Cervinia, dove i prezzi sono molto alti, diciamo lo stock abitativo è uno stock abitativo appunto, come dicevamo, un po' vecchio, soprattutto a Cervinia, quindi sono state penalizzate perché chi acquistava cercando anche di diciamo non sforare il proprio budget, magari restare tra i 150 e 200 mila euro, cercava nelle località vicine, più piccole, meno conosciute, dalle quali poi ci si poteva spostare e andare nelle località maggiori. Courmayeur però adesso sta andando abbastanza bene dal punto di vista della domanda, perché hanno aperto questa nuova, diciamo, Skyway Monte Bianco, la nuova funivia, che è molto bella, panoramica. Dicono che ha la cabina che gira su se stessa, io soffro di claustrofobia, quindi non la proverò mai. Però sei documentatissima lo stesso, che... fiducia, le informazioni che ci stai dando sono dettagliate. E quindi particolarmente nuova, e questo ha richiamato chiaramente turisti e anche potenziali acquirenti. Infatti. Allora, stavo adesso mi ero un po' persa fra i messaggi che stanno arrivando da parte degli ascoltatori, appunto, che ancora rilevano la questione della fiscalità, altri invece sostengono che la classe energetica non incida poi più di tanto, lo dice Ugo, poi magari ci torneremo su questi aspetti, però siccome ai nostri ascoltatori piace tanto, noi in genere con Nicoletta ci cimentiamo nel cosiddetto domandone. Certo. Per attirare l'attenzione degli ascoltatori. Io non so se questa è una località particolarmente gettonata per fare un investimento di carattere immobiliare, però io non dico la città, chiedo solo ai nostri ascoltatori se sanno, se hanno letto in questi giorni della notizia in cui c'è una città del centro Italia, do un piccolo aiutino, un po' come Raffaella Carrà, in cui è ti stato... Ti vedo infatti più bionda. Più bianca in realtà qua. Allora, è stato acceso per la 36esima volta, proprio in questi giorni, l'albero di Natale più grande del mondo. È stato allestito da un gruppo di volontari, con una prestazione d'opera assolutamente gratuita, lungo il versante del Monte Ingino, ai piedi del quale è situata la città di... Io non lo dico... Diamo il numero verde? 800 24 00 24. Il monte c'è. Il monte c'è. C'è l'albero. Esatto. C'è il nostro numero verde. C'è tutto. Paola Ci sono Dezza dei pure. Libri. Esatto. C'è Paola Dezza, Carmelo Lauricelli, regia la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Che volete di più? Esatto. Posso anche dare un altro aiuto, così magari gli ascoltatori vanno subito a cercare su Google per, con tutti i dettagli per trovare la risposta. Praticamente questo albero sarà acceso per tutto il periodo delle festività fino al 10 gennaio, e ad accenderlo è stato Miguel Lupiz, uno dei membri del direttivo dell'associazione Medici Senza Frontiere, che peraltro è reduce da una missione in Afghanistan, per cui insomma abbiamo una bella iniziativa corredata anche dalla giusta dose di solidarietà. Dovete solo dirci la città in cui tutto questo è accaduto. Nel frattempo siamo arrivati già alla nostra prima pausa. Andiamo. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta. Cuore e denari. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. E se non fiocca, fioccherà presto. Chissà quanto influisce il dato meteorologico sui costi delle case per le vacanze invernali degli italiani. Noi stiamo respirando un po' di aria di vacanza, anche se in questo 8 dicembre siamo qui al lavoro. Però vogliamo sognare con voi l'acquisto di una casa in montagna che forse potrebbe diventare realtà. Il mercato immobiliare sembra vivere una situazione favorevole in questo momento. I prezzi sono scesi negli ultimi anni, il credito è un po' più abbordabile, bisogna insomma decidere o meno la località che ci piace. 800 24 00 24, il numero verde a vostra disposizione se vi è balenata questa idea in testa, ma se anche fosse solo un sogno, quale località scegliereste? Al domandone state rispondendo in tanti, fra un po' vi sentiremo, ma Paola Dezza del Sole 24 Ore, quanto sono disposti a spendere gli italiani per una casa in montagna? Poi prima andiamo alla disponibilità di spesa, capacità di spesa, poi a quello che c'è davvero sul mercato. Certo, allora diciamo che il budget per una casa da 4 posti letto, che è la casa tipica per la montagna, può andare dai 120 ai 200-250 mila euro. Poi ci sono località molto più care come Courmayeur, dove almeno 500 mila euro bisogna metterli in conto, perché a Courmayeur i prezzi in centro centro sono sui 6.000-7.000 euro al metro quadro, si arriva anche a 10.000 euro come punte. Quindi la valutazione della località è molto importante, certo, proprio per capire anche il prezzo, perché nella stessa Val d'Aosta il nuovo costa 5.700 euro a Champoluc e ne costa magari 4.000 a Brusson. Allora posso considerare meglio dove andare. Bisogna pensare che poi in montagna la metratura è sempre piccola, sono appartamenti 35-50 metri, quindi diciamo il budget finale poi è più contenuto. Modalità presepe, insomma, certo, per stare belli caldi. Sì. E poi si sta sempre molto fuori. Devi quindi poi anche calcolare che compri una casa, ma poi vuoi andare a sciare, quindi esatto, devi anche avere uno spazietto per mettere tutta l'attrezzatura. Ma mi riferivo anche alla distanza tra la casa acquistata e poi gli impianti, le per piste, non ritrovarci di certo nuovo tutti in macchina appassionatamente a portare su i bambini. Certo. In macchina sudano gli scarponi. Vi vedo un con una grande esperienza su questo argomento. Si vede che io vado poco o niente a sciare proprio. Esatto, meglio esatto una tenda lì vicino alla pista. Infatti il prezzo, diciamo, sul prezzo incide anche la vicinanza con certo le piste. Evidentemente. Noi abbiamo preso in affitto una casa vicino Bormio, ci racconta Gabriella, 500 euro spese escluse al mese. Che te ne pare di questo prezzo, Paola? Io non saprei dare un giudizio su questa località. Tu che dici? Direi che è un buon prezzo. Dipende chiaramente anche dal periodo, magari sotto Natale o tra Natale e Capodanno forse il prezzo sarà un po' più alto. Natale e Capodanno consideriamo che quel prezzo si spende a settimana, non al mese in genere, perché si spendono anche 1000 euro per la settimana di Capodanno. C'è anche chi magari la affitta per 6-8 mesi, la blocca già di anno in anno e evidentemente bloccandola per un periodo lungo riesce ad avere un prezzo, un canone mensile un po' più sì vantaggioso. Diciamo che gli affitti a stagione vanno dai 3.000 ai 4.500 euro per le case, parliamo appunto per 4 persone. Poi se magari ci si mette insieme in due famiglie si vuole una casa da 8 posti letto, i prezzi vanno facilmente sui 7.000 euro per la stagione. Chiaramente a quello vanno aggiunte poi le spese di riscaldamento dell'appartamento, gli ski pass, quindi la montagna, insomma, è costosa. Certo, vuoi mettere un mutandino, una spiaggia, slip e via, uno slipino e via, un cappellino al massimo, una bottiglia d'acqua fresca, ma proprio al massimo se proprio mi voglio sprecare. Allora, intanto vedo tanti ascoltatori pronti a rispondere al domandone, io lo rifaccio. Dove è stato acceso proprio forse ieri l'albero di Natale più grande del mondo per la 36esima volta, quindi insomma, visto che è una tradizione che si consuma ormai da 36 anni, la sapranno gli ascoltatori, infatti vedo che la sanno, una bella cittadina del centro Italia, ma proprio del centro, poi vedremo anche se lì il mercato immobiliare è particolarmente interessante, quello per la seconda casa, se si scia da quelle parti. 800 24 00 24. Paola, oltre ad acquistarla c'è anche chi vuole vendere una casa in montagna. Quanto ci si mette? Un mercato, come si suol dire, liquido, insomma le trattative vanno avanti a lungo, tutti i passaggi forse sono un po' più complicati rispetto ad una prima abitazione? Ma direi che i tempi sono tempi abbastanza lunghi in generale, perché con la crisi le compravendite appunto si erano fermate anche nelle località più richieste come Courmayeur, diciamo c'era stato un pesante rallentamento. Adesso ci sono situazioni in cui l'offerta è molto più ampia della domanda, perché magari si è costruito molto. Mi viene in mente Cervinia, dove negli anni passati avevano comprato anche persone che magari risiedono nel Lazio o comunque lontano da questa seconda casa, quindi la sfruttano poco e adesso la mettono sul mercato, quindi l'offerta è molto ampia. E località dove invece si è magari costruito in generale poco e quindi diciamo c'è molta domanda, perché la località diventa sempre più interessante e l'offerta non corrisponde. Teniamo conto che adesso si cerca la casa in montagna dove ci sono anche altri servizi, per esempio piace molto cercare casa dove ci sono delle terme, dove c'è anche qualcos'altro da fare, magari cittadine dove c'è una vita culturale, e quindi per esempio a due negozi, Deborah, no? Qua il esatto portafoglio, dove... visto che apriamo il portafoglio apriamolo come si deve fino in fondo, un posto dove mangiarsi una bella cioccolata con la panna, insomma, anche per chi non scia. È interessante effettivamente. A Champoluc hanno aperto adesso le nuove terme e questo ha dato al mercato, diciamo, una certa vivacità. No, anche perché siccome appunto magari in un nucleo familiare non tutti sciano, io se dovessi scegliere effettivamente l'aspetto dell'appoggio termale sarebbe esatto, non indifferente. Approvo. Sentite quest'altra bella notizia carina, sempre Tecnocasa ce lo racconta. I potenziali acquirenti, soprattutto chi è alla ricerca della seconda casa in montagna o in campagna anche, apprezzano sempre di più il camino, non solo per la sua funzionalità, non solo perché naturalmente se abbiamo dei bambini è il posto che dobbiamo mettere a disposizione di Babbo Natale per portare tutti i regali, ma anche perché viene considerato componente d'arredo vero e proprio. La presenza del camino può conferire un valore aggiunto all'immobile, può inoltre aiutare al momento della vendita in quanto richiesto come plus da una fascia di acquirenti disposti ad aumentare il budget pur di trovarlo. Che razza di dignità ha il camino? Io tutto avrei creduto tranne che avesse tutta questa importanza. Effettivamente, al suo fascino. Sì, al suo fascino, e quindi nel momento in cui si va a acquistare soprattutto una seconda casa, che quindi è l'acquisto dei sogni, dei desideri, si cerca poi di avere anche magari il camino, che è sempre stato nei sogni sin da bambini un elemento importante di calore anche. Allora, senti, qua dobbiamo decidere. Leggiamo il messaggio di Anna Maria. Subito, perché già mi era caduto l'occhio, Anna Maria ci fa già simpatia e fa anche rima. Nessun perché... tipo di commento sul mercato immobiliare, però... Perché ci dice, per fortuna che ci siete anche oggi. Lei è il Fornelli, evidentemente fa un lavoro, come sempre, per cui molto probabilmente sarà un cuoco. Oppure una famiglia numerosa, oppure ci aspetta pranzo, non lo sappiamo, comunque. Anna Maria, un bacio. Poi abbiamo andiamo Silvana. Da lei, dai, sì, andiamo, va. Andiamo subito ad aprire la libreria, la biblioteca di Cuore Denari. Silvana, buongiorno, intanto. Buongiorno. Allora, dove è stato acceso? Sì, dobbiamo andare alla pausa. L'albero di Natale più grande del mondo. Questo merito lo dobbiamo all'Italia. Dov'è? A Gubbio. Grazie Silvana. Un libro di Cuore e Denari, naturalmente, e poi i saluti di Paola Dezza, che fra un po' risentiamo per qualche altro minuto con noi dopo il giornale radio. Come sentite la musica di sottofondo, ci richiama all'ordine. Andiamo. A allora. Tra poco. Cuore e denari. L'inverno, il sole è stanco, a letto presto se ne va, non ce la fa più. Allora vabbè, la canzone la conoscete prima di arrivare al ritornello. Ma che freddo fa? Ma il freddo fa bene o no alla voce? O è meglio un po' il calduccio per le corde vocali? Altro domandone, 800 24 00 24, riscaldatevi per con questo domandone, perché tra poco riscalderemo la nostra voce e canteremo in diretta. C'è chi cerca le temperature naturalmente rigide, quindi cerca la località in montagna più adeguata in questo momento. C'è chi sta meditando anche un acquisto, un investimento immobiliare. Abbiamo fatto un'esplorazione tutta l'italiana naturalmente con la nostra Paola Dezza del Sole 24 Ore. Ancora un paio di minuti di tempo, Paola, per raccontare un po' come sta andando questo mercato. C'è un ascoltatore, Giuseppe da Brescia, che ci scrive: quando sarà in pensione gli piacerebbe andare a vivere ad Offagna, che è vicino casa mia nelle Marche. Non è proprio esattamente una località dove si scia, però insomma ognuno ha i suoi gusti. Giuseppe vuole andare là. Allora, si può comprare anche, Paola, una casa, come dire, magari tra virgolette, mi viene da dire, in società con degli amici? Quali sono le tipologie di casa che si possono prestare a questa soluzione, una comproprietà, a meno che non ci si scanni poi successivamente? Bisogna essere intanto molto amici, immagino. Sì, ma è molto difficile, è più facile magari affittare casa in due o tre famiglie, diciamo, anche se in montagna non è sempre facile trovare case abbastanza grandi, cioè o si va sulla casa unifamiliare, ma l'appartamento in montagna tipicamente è per quattro posti letto, quindi se si cercano 8-10 si fa un pochino più fatica. Acquistare insieme la vedo veramente difficile. Senti, insomma, prima di salutarci, il bigio è già dietro l'angolo. Infatti, assolutamente. Sì. Insomma, sul business è meglio sempre fare un po' di attenzione. L'ultima domanda prima di salutarci, Paola, prima di augurarti un buon 8 dicembre per quello che rimane di questa giornata di festa. Allora, dacci tutti i suggerimenti di cui dobbiamo ricordarci bene nel caso fossimo attirati appunto da un investimento di questo tipo. La casa in montagna, abbiamo scelto magari la località dei nostri sogni, abbiamo individuato il prezzo che va bene per noi e per le nostre tasche. A quali elementi dobbiamo appunto porre un'attenzione particolare, magari proprio guardando bene all'abitazione, su quali caratteristiche ci dobbiamo soffermare? Allora, valutare prima di tutto che sia comoda, vicino ai servizi, vicino al centro del paese, alle piste, perché nel momento in cui si va magari ad affittarla, perché ci si pensa sempre, no, di affittarla magari qualche settimana all'anno, queste sono le caratteristiche più importanti nel momento in cui la si mette sul mercato, ma anche nel momento in cui la si va a rivendere, perché abbiamo detto che i tempi sono abbastanza lunghi e ancora più lunghi diventano se la casa non ha nessun appeal. Quindi valutare questo, valutare quanti anni ha l'abitazione, perché se è troppo vecchia richiede poi grandi spese di manutenzione come tutte le seconde case, quindi magari orientarsi anche sul nuovo, perché in questo momento magari sul nuovo si riescono ad avere prezzi interessanti o comunque a contrattare se il cantiere non è stato venduto per via della crisi, e avere una palazzina, magari una casa un pochino più nuova con anche una classe energetica più interessante, perché comunque si valutano queste cose, soprattutto in montagna il riscaldamento si tiene sempre acceso, quindi insomma. Infatti, a meno che insomma non si spenga nelle due ore in cui si va a sciare. Paola, le prossime inchieste sul mercato immobiliare del Sole 24 Ore delle quali ti occuperai? Occuperò nella prossima copertina delle previsioni 2016 per il mercato, quindi cosa succederà al mercato residenziale nel prossimo anno. Sfera di cristallo. Saremo fuori dalla crisi o no, lo vedremo insomma. Quindi tornerai a trovarci? Io sempre molto volentieri. Allora. Benissimo, allora. Il 6 gennaio magari. Adesso guardiamo l'agenda, vediamo quando possiamo riorganizzare una puntata con te. Grazie. Grazie a grazie. Voi, grazie molte. A presto, arrivederci alla a prossima. Tutti. Quello così diceste la minuti di applausi per la Giovanna d'Arco, andata in scena ieri per la prima della Scala, diretta dal maestro Riccardo Sciai, che abbiamo avuto anche il piacere di avere qui a Cuore Denari. È stato un successo l'opera verdiana, scelta proprio per inaugurare la nuova stagione scaligera. Persino il temuto Loggione, Deborah, sai che sono molto raffinati, ma altro anche che... critici, era in estasi. E per noi c'era la nostra Marta Cagnola. Ciao Marta! Buongiorno, spero che mi sentiate bene, mi collego dal divano di casa perché oggi finalmente mi riposo. E noi naturalmente come siamo avanti, venuti a trovarti, Marta, eccoci. No ragazzi, Cuore Denari è la mia trasmissione preferita, io l'ascolto tutte le mattine venendo in radio e lo sapete perché vi mando sempre messaggi per commentare. Mm-mm. E quindi sono molto contenta di essere vostra ospite, qualche volta vengo anche in studio se mi volete. Volentieri. Sono contentissima. Adesso noi ci trasferiamo sul tuo divano tutti insieme. Facciamo due chiacchiere. Sulla, che bello, vi offro il caffè, dai. Magnifico, sulla serata di ieri. Tutti promossi, abbiamo letto anche sui giornali, voti molto alti. Ma tu che sì, c'eri? Sì, devo dire poi questa cosa buffa dei minuti di applausi, perché c'è sempre il dibattito, perché allora leggerete oggi 11 o 8. Allora, io ho detto 11. È perché allora le scuole di pensiero sono 8 minuti continuati oppure 11, insomma alla fine io nei servizi ho detto 8 perché tra colleghi alla fine si decide quello che batte l'ANSA, che è l'agenzia di stampa, e quindi diciamo 8 continuati però 11 complessivi. Sembra poca cosa, provate a pensare di battere le mani per 8 minuti, anche se si è in tanti, è lunga e non finiscono più. E ci sono stati un sacco di applausi anche di Bravo a scena aperta, è andata proprio bene. Devo dire anche un po' liberatori. Dopo la giornata di ieri così tesa, l'atmosfera era serena, non era preoccupata per i controlli, però certo si sentiva che non era una prima normale. Si sentiva, ma io vorrei, Marta, citare uno studio, perché un po' di tensione naturalmente c'era, è stata una prima molto controllata, ma pensa che c'è uno studio che è stato fatto da dei ricercatori dell'Università di Pavia e pubblicato su Circulation, che dice che la musica, in particolare proprio la lirica, può rallentare il battito cardiaco e ridurre la pressione. Quindi è vero, è stata una prima un po' che farà storia questa, ma sicuramente l'opera lirica ha proprio questo vantaggio di sciogliere e ridurre le tensioni. Senti Marta, ma tu e Anna, chiamiamola così, sì, avete sì, perché Anna. Noi siamo sul divano e chiacchieriamo, avete una cosa in comune, la dico? Sì, sì, va ecco, bene. Ecco, perché siete entrambe soprano. Perché Marta Cagnola... Io in una vita precedente, ha però, studiato dai, no, per tanti anni canto. Sì, e sì, ne sì, voleva addirittura fare la sua professione. Poi... Sì. E poi avevo due grandi passioni, il giornalismo e il canto. Alla fine ho deciso di fare la giornalista. Beh, è già una fortuna avere comunque realizzato il sogno della propria vita, anche se era uno dei due, quindi io mi ero data al 50%. La voce però la usi altro che... Però la voce la uso, e devo dire che avere studiato per tanti anni canto mi dà due vantaggi. Uno, che comunque riesco a usare la voce per lavoro in maniera molto efficace. Due, che ho uno sfogo, un rifugio, qualcosa che mi fa stare immediatamente meglio. Vero, curativo. È curativo. Adesso noi oggi, Marta, sempre dal tuo divano, faremo questa operazione. Utilizzeremo la voce per fare al tempo stesso diagnosi e la useremo anche come terapia. Abbiamo bellissimo. Lo studio pieno di uomini, Marta. Abbiamo preso un mazzo di uomini bellissimi, fanno parte, sono tutti della stessa famiglia. Uno lo conosci anche tu, è il professor Ernesto Di Pietro. Eccolo qua. Te lo faccio che sentire. Buongiorno a tutti voi che ascoltate. Io mi ricordo che, Marta, tu mi avevi così, eri rimasta favorevolmente sorpresa da una puntata in cui il professor Di Pietro aveva proprio individuato, aveva fatto una relazione tra i blocchi che noi avvertiamo, e quindi dolori, tensioni e le nostre emozioni. Ti dicevo che però il professor Di Pietro viene accompagnato dai Dama Bros, che vi voglio fare, a cui chiedo di presentarsi direttamente. Buonasera, anzi buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco, sono... Io sono Martin. E io sono Daniel. Allora, i Dama Bros sono un duo, è un duo? Siamo un duo di fratelli, infatti di Dama fratelli. Arriva proprio dall'acronimo Martin e Daniel Martin. Daniel e Martin, esatto. Sì, io ho detto Daniel, ma in realtà Deborah, come bisognerebbe dire, lui Daniel. Daniel, ma lui ho notato appunto che la pronuncia è... E allora, raccontate un po' cosa faremo a Marta, che così sarà invidiosa di non essere qua con noi in studio, ma continuerà ad ascoltarci, magari canterà con voi. Utilizzeremo proprio la voce, perché il professor Di Pietro, sentendo le vostre cantate, ma anche il modo in cui parlate, certo, farà diagnosi, no? È importantissimo, individuerà i blocchi. Quando noi cantiamo utilizziamo soprattutto la cervicale e tutti i muscoli che sono attaccati alle vertebre cervicali, quindi è importantissimo vedere come una persona parla e come una persona canta, perché da lì capiamo anche se ci può essere un problema cervicale, che può condizionare poi la voce. Per cui voi soprattutto che della voce ne fate una professione, è molto importante vedere e ascoltare quelli che possono essere i piccoli risvolti che ci sono dietro le note che emettete con la vostra voce. E poi invece voi sarete i nostri terapeuti, Dama Bros. Sì, diciamo che la voce è anche un qualcosa che, come dicevi tu prima, ci fa sentire bene quando cantiamo, e poterlo fare nella maniera più educata per la voce stessa e migliore, più libera, liberando la voce, perché insomma bisogna anche dire che la nostra voce è già capace di cantare. Questa è una cosa che va appresa, semplicemente bisogna togliere i blocchi che noi gli mettiamo e lasciare che vada liberamente nel punto corretto. È uno strumento musicale. È uno strumento musicale come tutti gli altri. Allora, per salutare Marta Cagnola, Di Pietro Family, quindi, allora, regalerà a Marta un'indicazione, a parte i complimenti per questa voce che adesso abbiamo scoperto, perché Marta questa voce è perché ha studiato anni canto. Si sente. Sempre bella la voce. Quale consiglio, quale coccola suggerisce a Marta per la sua voce, per mantenerla sempre così bella, lei che l'allena, che usa? Ma guarda, forse abbiamo scelto la persona che ne ha meno bisogno di consigli, semmai ce li può dare lei qualcuno, perché Marta ha la voce giusta, che è giusto, è un gran complimento, non è soltanto bella, cioè ha tutti gli aggettivi che gli si possono dare. Non è solamente io voglio sempre essere ospite, bellissimo. Ti piace? vieni. Perché gliel'ho servita sempre su un piatto d'argento, nel senso che non solo è intelligente, bella, ma anche la voce è perfetta. Con questo preparo un altro caffè, anzi, e poi tra poco noi veniamo a brindare. La cioccolata calda ci vuole oggi. Grazie a Marta Cagnola, a presto. Ciao Marta, a presto, buon lavoro. Grazie, a presto, domani sarà di nuovo qua con noi. Allora, noi invece lavoriamo Che dite? Eh? Noi siamo fatti per cantare, perché ho letto che si ipotizza addirittura che il canto sia nato prima del linguaggio. Allora, questo mi spinge a fare una richiesta ai nostri amici che ci stanno ascoltando. Cantate! Noi siamo circondati dalla musica, ascoltiamo molto, ma cantiamo poco. E invece dobbiamo tornare a cantare, perché cantare fa bene a noi, fa bene anche alle persone che ci stanno accanto, anche se non siamo intonati. È una ginnastica che fa bene al corpo e alla mente, con effetti, come ci spiegava in una puntata precedente, sì, il professor Di Pietro, anche le emozioni. Quindi vincete la timidezza, tirate fuori il cantante che c'è in voi. In studio i Dama Bros con Daniel e Martin vi aiuteranno proprio a riprendere un po' di mestichezza con quel cantante che avete soffocato, ma c'è dentro di voi, che potete usare per recuperare benessere. Professore. Sai, cantare è un linguaggio. È un linguaggio che richiede anche l'utilizzo del corpo, quindi il corpo deve essere in forma per cantare bene e viceversa, bisogna cantare bene per avere il corpo in forma. La differenza tra ascoltare e cantare è come guardare, fare sport e fare direttamente sport. Tutte e due le cose vanno bene, ma soprattutto se sono fatte tutte e due. Praticando uno sport possiamo poi, guardandolo, capire cosa sta veramente facendo, qual è il gesto atletico dell'atleta che stiamo guardando, ed è molto importante. Hai ragione, si canta poco e male, più che altro si tende ad imitare in modo brutto i cantanti che sono personaggi, e non c'è più quell'educazione musicale e di canto che c'era qualche anno fa. E questo purtroppo fa sì che ci sono pochi talenti nuovi, primo perché non c'è spazio per i nuovi talenti, e secondo perché si cercano personaggi e non cantanti, cioè prima si arriva a diventare personaggio per poi imparare a cantare, e questo non è corretto in nessuna manifestazione della nostra vita sociale, figuriamoci nella musica. Noi stiamo invitando i nostri ascoltatori, oltre a raccontarci se cantano, quando cantano, cosa cantano, ma uno canta sotto la doccia, canta in macchina, canta per quando è allegro, canta per tirarsi su se è triste, quando ha paura, e allora, no, che è il famoso canta che ti passa. Certo. Noi proponiamo ai nostri ascoltatori questa sorta di gioco test, perché naturalmente ci vuole altro per arrivare a fare una diagnosi della voce. Andate a prendere il ritornello della canzone che sta accompagnando la favola di Natale che stiamo scrivendo insieme ad Andrea Vitale, la conta che si canta, la ascoltate e poi provate a cantarla. Che cosa sarete in grado di fare, che cosa farete per noi? Lo chiedo al professor Di Pietro, lo chiedo anche ai ragazzi, a Daniel e a Martin. Allora, il pezzo è molto bello, sono andato a sentirlo quando me l'hai segnalato, è bello, sono quelle belle filastrocche che non si usano più, utilissime, tra l'altro anche per i bambini, è pieno di termini nuovi, perché per raggiungere poi quella che doveva essere la rima sono stati usati dei termini bellissimi che non si usano più, e quindi anche può nascere la curiosità di imparare anche un po' di italiano, di quello bello. Per l'utilizzo del canto potremmo, per gli ascoltatori, partire da esercizi molto molto semplici. Addirittura la benzina del motore, del nostro motore del canto, per esempio, è l'aria. E quindi come immettere l'aria nel modo giusto? Allora passo la palla all'esperto. Esperto. Diciamo che l'aria è la prima parte di quello che è la voce, una colonna d'aria che parte dalla respirazione. Un esercizio semplice che possiamo fare anche in macchina per capire se stiamo respirando in maniera corretta. Mettiamo la nostra mano all'altezza del nostro stomaco, sulla pancia. Respiriamo. Se il nostro respiro solleva la nostra mano, quindi gonfia la nostra pancia, è una respirazione corretta, o comunque in quella direzione. Certo, anche detta diaframmatica. Diaframmatica, corretto. Sì. Che serve per cantare. Quindi Nicoletta respira correttamente. Ma serve anche per tenere giù, allontanare o ridurre le tensioni. Una respirazione che insegnano anche i maestri di yoga. E quindi, vero? Sì, sì. Anzi, non solo serve per l'emissione della colonna d'aria. Servirà anche poi quando c'è bisogno per i cantanti di tenere una nota per lungo tempo. Tenere la pancia gonfia, per dirlo in termini molto semplici. E quindi il diaframma in tensione aiuta a mantenere più facilmente la Se nota. Si fanno, se voi seguirete tutte le nostre, anzi le loro indicazioni, riuscirete alla fine di questa puntata a cantare così, non proprio così. Volete darci un esempio di come si combinano le due voci? Facciamo un pezzettino a casa. Prima dei mercati. Tema... Ah, ok. Dai. Vai. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom, doom. Io non li voglio fare i mercati, scusate. No, li fai. Non mi spegnere il microfono, Carmelo subito aveva silenziato i disturbatori. Perché lui temeva che noi due cantassimo con loro. Cosa che faremo? Adesso tu fai i mercati cantando, ecco, ormai ti hanno dato là. Così chiudermi il microfono, a tra poco. Cuore e denari. La neve fiocca. Scocca la mezzanotte, buon Natale a voi, rotola in bocca, una filastrocca, una conca che si canta, cantala con noi. Sono i Sulutumana che accompagnano con la conta che si canta la favola che stiamo scrivendo tutti insieme con Andrea Vitali, una favola dentro la favola, ogni giorno un incipit che noi vi offriamo per tirare un po' fuori lo scrittore che c'è in voi. Continuate quindi a mandare le vostre favole al nostro indirizzo, consultate naturalmente la nostra pagina. Oggi, oltre che a scrivere, cantiamo e ci aiutano due cantanti straordinari, i Dama Bros, Daniel e Martin, ma sono accompagnati dal loro papà, il professor Ernesto Di Pietro. Oggi usiamo veramente il canto come strumento di diagnosi per individuare i nostri blocchi, le nostre tensioni, possono derivare da delle posture scorrette, possono derivare anche da dei blocchi emotivi, ne abbiamo parlato certo. Tante volte che si fanno sentire, ma Daniel e Martin ci aiuteranno a sciogliere queste tensioni, a lavorare un po' con la nostra voce. Obiettivo: arrivare a cantare un po' tutti insieme, anche io e Deborah, poi ci se sì, Carmen non lo è ci una lascia. Minaccia, ma una allora come si fa a unire voce con voce, Daniel? Allora possiamo fare un piccolo esempio, così anche gli ascoltatori a casa possono magari poi andando a risentire su internet, tanto la puntata appunto sul sito di Radio 24, unire le cose. E vedi come, come c'è già, vedi su Radio 24. Come ci dà l'assist, come si dice. Allora, Martin, proviamo magari a far sentire una voce, una seconda voce e poi metterle insieme per provare questo esercizio a casa. Fai... Magari un brano di Natale. Sì, magari un brano di Natale. Sì, che siamo... Ci siamo quasi. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. La seconda voce. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. E insieme? Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Allora, le parti le abbiamo assegnato. Tu chi fai? Io faccio Martin. No, io non posso fare. Dai, tu ci alleniamo dopo. Faccio tu fai Daniel con viceversa. La D, esatto. No, entro la fine della puntata dobbiamo cantarla tutti insieme. Questo, volentieri. Allora, così lavoriamo anche sulla cervicale. Ma certo. Come diventeremo noi alla fine di questa puntata? La casa l'abbiamo comperata, facendo anche un grande affare. il canto di Natale siamo pronto. A posti, non lo so che cos'altro. Belle, portafoglio, siamo belle. Esatto, cioè, più di così non lo so. Guarda, non siete un po' in imbarazzo ad essere in questo studio allora, che rifulge di tutto questo la talento? La cosa bella che dobbiamo apprendere da quello che abbiamo sentito è che si canta con relax. Calma, calma, quando cantiamo è molto importante essere molto naturali, non forziamo, a parte che quando forziamo si strozza un po' la voce, anche brutta, ma soprattutto, parlo dal mio punto di vista, per il nostro corpo bisogna cantare rilassati, senza forzare, è come se dovessimo andare a correre e dobbiamo e facciamo più di quello che possiamo, assolutamente no, mantenere la muscolatura, come hanno fatto prima i Dama Bros, mantenere la muscolatura rilassata mentre si canta è un grande aiuto per il nostro corpo, soprattutto perché nel canto noi emettiamo delle frequenze che vanno in risonanza in tutta la cassa toracica e persino le ossa vanno a risuonare in modo molto molto positivo, per cui cantare stando rilassati aiuta a riequilibrare un po' tutto l'organismo ed è molto molto importante. Tra l'altro non occorre una bella voce per cantare, possiamo cantare anche noi, Deborah, posso dici. Cantare anch'io, no? Con la voce che abbiamo a disposizione. Tutte poi, le voci sono belle. Anche se intonata, rauca, anche se ci sembra di no, non bella. L'importante, secondo me, è cantare per liberarsi, per stare bene, per mettere gioia, per tirarsi su, proprio usarlo un po' come una palestra. E dico palestra non a caso perché quando cantiamo, ma vorrei conferma dai miei esperti, usiamo un po' tutti i muscoli del nostro corpo, è un esercizio aerobico. Quando ho citato le ricerche che dicevano che si riduce la pressione, c'è una maggiore ossigenazione, è proprio tipico dell'esercizio aerobico che, guarda caso, è anche stato indicato come un strumento fantastico nella riduzione dello stress. Quindi non abbiamo che da guadagnare in questo caso. Infatti. Deborah, poi costo zero. Costo zero, insomma, un investimento assolutamente fattibile. Un po' di fiato, però ci sono tante persone che sono bloccate, o cantano da sole o cantano sottovoce perché si sentono magari non adeguate, hanno in qualche modo quasi paura della loro stessa voce. Brava. Come e questa la dice lunga, no? Non si sentono. Perché non si ascoltano? Noi non siamo capaci di ascoltarci, infatti quando ascoltiamo la nostra voce poi registrata ci meravigliamo, ma è questa la nostra voce, perché noi ascoltiamo una voce interna. Per fare questo è molto importante fare la paletta, si chiama in gergo. Sì, Moldante, se volete farlo a casa, volete farlo anche voi. Noi abbiamo le cuffie qui, ma se togliessimo le cuffie e vogliamo ascoltarci, basta mettere la punta delle dita dietro l'orecchio, piegare in avanti l'orecchio ma senza chiuderlo e portare la mano avanti e parliamo quasi sul polso, in modo che la voce quando esce, il canale d'aria che esce, percorre tutta la mano fino a cacciarla dentro l'orecchio con le dita, niente così. Eccola qui. Abbiamo lo stesso effetto che abbiamo con la cuffia e questo ci permette di ascoltare la nostra voce, perché noi quando ascoltiamo chiediamoci che cos'è il suono. Il suono è una vibrazione dell'aria che porta e sposta la colonna d'aria dentro il canale uditivo, dentro il timpano, e lo mette in vibrazione. Quindi aiutiamo a entrare la voce che esce, a entrare nel nostro orecchio. Però insomma, cuffia manuale. Ci toccherà una cuffia manuale. Cuffia manuale. Allora, l'invito però oggi è rivolto anche alle persone che non vogliono cantare, che non cantano ma vogliono solo far ascoltare la loro voce, magari leggendo un pezzetto, raccontandoci una storiella il professor Di Pietro e ai Dama Bros, per ricevere magari delle indicazioni, dei consigli per, non voglio dire impostarla, ma per renderla più naturale. Assolutamente. Allora, se invece voi avete il canto nelle vene, quindi per voi è una passione e anche vi volete cimentare in diretta a Cuore Denari, Danilo è pronto, eccolo là, guarda, lui non ha fatto altro che mettersi all'ascolto della radio stamattina, non aspettava altro, anzi direi. Danilo, benvenuto. Pronto, grazie, buona giornata. Già partito bene con questo entusiasmo. Allora, ci racconti un po'. Allora, io canto da circa 4-5 anni in un coro gospel e fra l'altro canto anche con mio figlio. Oh, che bella cosa, bellissima. Esatto. Che belle cose tutte e due, il gospel vero, e il figlio. Sì, sì, è veramente un'esperienza unica. Io non avevo mai cantato prima, nel senso che come tutti in macchina sotto la doccia, come capita a tutti. Che è il posto migliore dove cantare, la doccia. Non sto scherzando, non lo sto scherzando, perché c'è l'umidità giusta, abbiamo anche il calore giusto per tutti i muscoli e soprattutto è un luogo chiuso, magari anche con il vetro, e abbiamo un ottimo, un'ottima risonanza. Molte volte si cerca quel tipo di suono quando si sta col microfono, per cui scusi se l'ho interrotta, ma è bellissimo. Questa è una delle tante ragioni per cui non escono mai dal bagno. Forse il vostro compagno canta, perché vado a farmi la doccia. E lì diventa notte, no? Placido Domingo. Allora, Danilo. Vabbè, poi per un caso ho iniziato a cantare in questo coro gospel e poi, fra l'altro, da 3 anni a questa parte il coro ha preso il volo ed ha iniziato a fare spettacoli di beneficenza. Il coro si chiama Black Inside e praticamente nel giro poco meno di 3 anni mi ha fatto quasi 30 spettacoli di beneficenza. Ma che bello, Danilo, ci fai sapere poi magari in privato dove li esibite, che facciamo un salto a sentire. Ma non lo facciamo cantare neanche un secondo? Certo, Danilo, sì. È lì con suo figlio. Cosa può essere al telefono? Appunto, ha iniziato a cantare anche mio figlio. Adesso siamo partiti in pochi, adesso siamo una trentina e addirittura c'è un secondo coro di amici che sono venuti a vederci. Ma come, quello fa un mestiere, quell'altro un altro, eccetera, lo provo anch'io. E via. C'è un secondo coro che si chiama Bispiri, che fa parte della nostra associazione culturale che abbiamo costituito. Senta Danilo, ma lei adesso però deve cantare dopo averci raccontato tutte queste cose. Se basta, no, parole, fuori le note. Qualcosa, via. Sono qua mio figlio, proviamo questo, aspetta. Ci conosciamo, ci aggrediamo anche noi di qua. Sì, assolutamente. Che così fate una cosa in diretta. Vai. Good night, sweetheart, well, it's time to go. Good night, sweetheart, well, it's time to go. I have to leave you, I really must say so. Good night, sweetheart, good night. Bravo. Danilo, grandissimo. Bravo. Adesso noi fermiamo più, attenzione. Grazie, Danilo. Niente, abbiamo creato dei mostri. Ok, grazie. Ottimo. Grazie. Un abbraccio a Danilo e al suo ragazzo e a suo figlio. Complimenti per la trasmissione, ci scrive Gabriella. Non è scappata, vedi? Vedi? Vorrei sapere a che età è opportuno iniziare a fare canto ai bambini e se questo li aiuti a sviluppare autostima. Bello. In sé. Allora, lo chiediamo subito ai nostri ragazzi. Daniel, tu quando hai iniziato? Martin? Allora, io ho iniziato tardivamente, diciamo verso i 16 anni. In realtà non c'è un'età in cui non è bello, al di là che proficuo, iniziare a cantare. Ovviamente senza esagerare nelle pretese tecniche, anche perché stiamo parlando, come poi ci spiegherà meglio il boss, papà, professor Di Pietro, di un'età in cui la voce è nel pieno del suo sviluppo, certo, in cambiamento. Ecco, però è bello e assolutamente a qualunque cantare età. Non è mai troppo relax, tardi. Va sempre bene. E mai troppo presto. Alle mamme, però, in ascolto, alle future mamme, vogliamo fare una raccomandazione. Cantate e parlate ai vostri bambini, anche se sono piccolissimi, anche quando sono già, certo, nella vostra pancia, anche quando sono appena nati, leggete favole, filastrocche, che cantate ninna nanna, insomma fatevi sentire, perché la voce li aiuta a crescere. Ci sono delle ricerche molto interessanti che ci dicono, pensate, che i neonati riconoscono fin da subito la lingua della prosodia, fatta di intonazioni, di vocali allungate, di un tono della voce che si alza e si abbassa in maniera ritmica, e che i bambini a pochi giorni di vita sanno distinguere un'armonia perfetta da un rumore. E quindi mi raccomando, cantate, non smettete di farlo. Ti dirò un aneddoto. Accarezzate così i vostri bambini. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi me lo dite, me lo racconta. Sì. Ok, allora tra poco. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Cuore e Denari. Ci stiamo riscaldando la voce, perché oggi di voce parliamo insieme al professor Ernesto Di Pietro, insieme ai Damma Bros, Daniele Martin. Utilizziamo la voce proprio per cercare di restituirgli benessere, perché la voce è uno strumento e va suonato in modo naturale ma adeguato. Ci sono un po' delle regole, no? Delle attenzioni da seguire, e naturalmente vogliamo anche dare indicazioni a chi la voce non la usa per cantare ma per parlare. Pensiamo ai professori, tutti noi parliamo, tutti noi inconsapevolmente sforziamo questo straordinario strumento che ci permette di entrare in relazione con gli altri, ma anche oggi lo abbiamo scoperto anche con il professor Di Pietro, conoscere meglio noi stessi, blocchi, tensioni. La voce cambia, no? Segue un po' le nostre emozioni. Quando siamo preoccupati noi ci accorgiamo di avere una voce diversa, quando magari non abbiamo un rapporto amichevole con la persona che ci sta davanti notiamo che la voce si stizzisce un po'. Quindi impariamo a usare proprio la voce per regalarci benessere a 360 gradi, direi psicofisico, eh? Assolutamente. Allora, e quindi noi adesso stiamo utilizzando la voce dei Damma Bros perché così ci piace. E allora, anche se prima o poi utilizzeremo quella di tutti in questo studio, abbiamo volentieri detto, io un po' di no, non so, vabbè, va bene, andiamo. Le scuse non sono ammesse, facciamo sentire, vai. Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura? Te lo rivelano gli occhi e le battute della gente. Ho la curiosità di una ragazza irriverente che si avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprire se è ver quel che si dice intorno ai nani, che siano i più forniti nella virtù meno apparente. Tra tutte le virtù la più indecente. Questo, no, mi sembra vabbè, sono strepitosi, posso De André, dire. De André. Allora, grande Vincenzo, buongiorno dalla provincia di Asti. Buongiorno, sentite? Sì, anche con l'eco. Ecco, ma velocemente sto cucinando e come sempre io canto sempre in cucina perché mi, anche i piatti vengono meglio, cioè non so, è una vita che io ho la radio e musica, per me è importantissimo avere la musica sottofondo, mi aiuta molto. Nella creazione dei piatti, perché il piatto è un'armonia, no? Di sapori, di gusti, di equilibri, e quindi si fa aiutare dall'ascolto della musica. Vincenzo, dovremmo invitare anche qua Vincenzo che magari ci porta qualche cosa di succulento. Noi adesso li abbiamo citati. Sì, e siamo pronti a ricordarvi quello che è l'appuntamento fisso da qualche tempo a questa parte di Cuore Denari. È arrivato il suo momento, ne abbiamo parlato prima, l'abbiamo anche cantata. La conta che si canta dei Sulutumane è la colonna sonora della nostra favola di Natale, che continua con grande successo grazie ai nostri ascoltatori e alla loro vena di scrittori. Per chi si fosse sintonizzato ora, vi spieghiamo la nostra iniziativa e come potete partecipare. Fino alla vigilia, nel corso del programma, Andrea Vitali, accompagnato dalla musica della band lombarda dei Sulutumana, ci leggerà un breve brano della favola, uno per giorno, come un vero e proprio calendario dell'avvento. Infatti andiamo avanti fino al 24 e qui arriva, esatto, il bello. Ta-tan, perché Deborah, siete proprio voi, cari ascoltatori, ad immaginare un proseguimento, entrando così nella favola e contribuendo a scriverla. Al contributo più interessante, che viene scelto dalla redazione d'Andrea Vitali, arriva una copia del libro con la favola appunto del nostro Andrea. Naturalmente autografata. Per vedere il podio di oggi, perché ogni giorno ce n'è una, sulla pagina, andate sulla pagina dell'iniziativa che trovate sul sito di Radio 24. Adesso andiamo a sentire che cosa ci racconta Andrea. Uno di dicembre, mamma, come son contento. Con due dita appendo il calendario dell'avvento. Tre re magi e tre cammelli stanno alla finestra. Quattro gatti saltano la zuppa e la minestra. cinque le vocali che fioriscono nelle aiuole. Sei tu, sei la neve che mi appaglia più del sole. Sette sono i giorni per far una settimana. Otto volte russa il nonno sopra l'ottomana. 8 mesi di sciopero generale, sembra impossibile, eppure è successo proprio così, esclamò Mercurio planando davanti alle renne che stavano sorridendo alla loro maniera, scoprendo i denti. 8 mesi di sciopero generale e adesso, così come era cominciato, tac, era finito. Dovreste vedere che diavolo di confusione regna nel mondo, aggiunse. Si era accumulato un sacco di lavoro e adesso tutti correvano a smaltirlo, ma non sarebbe stato semplice, visto che, finito ormai lo sciopero, altro se ne accumulava. E i postini non facevano eccezione. Avete idea di cosa voglia dire avere un arretrato di 8 mesi di lavoro? Chiese. 8 mesi di posta da consegnare per quanto riguardava lui e la sua categoria. Mentre parlava, Mercurio cominciò a scaricare dalla schiena, che aveva larga e possente, enormi sacchi ricolmi di lettere che i bambini avevano comunque scritto al babbo, indifferenti allo sciopero. «Ma quanti sono?» chiese la rena Rudolf. «Quanti erano quei sacchi?» «La neve fiocca, l'orologio scocca, basta, a mezzanotte». Buon Natale a voi. Buon Natale presto. Però abbiamo cantato, ma entro il 24 canteremo anche noi. Che non è una canzone bella, ma un po' complicata. Bisogna allenarci. Bisogna allenarsi. Grazie Dama Bros, grazie professor Ernesto Di Pietro. Andate, non perdeteli di vista e di orecchio questo duo fantastico. Il professor Di Pietro torna e noi anche noi domani. Io no, invece. Va bene, ti perdono. Ma mi devi portare un bel regalo di Natale per essere totalmente perdonata. Grazie, grazie a tutti, a domani, buona giornata.